Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto subito Gianluca Codognato al telefono con noi. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Gianluca, oggi parliamo di una vicenda che sono di quelle da super coccolone, cioè un fatto che vi è capitato, che state seguendo, di una signora che si è vista arrivare una notifica di Equitalia, ma che racchiudeva ben 45 cartelle esattoriali. Una vera bomba, anche perché la cifra che qua Equitalia richiedeva era oltre i 500.000 euro. Se ti arriva una cosa del genere, credo che veramente non si riesca a dormire la notte. Come è successa questa cosa e come stanno andando avanti le pratiche? Ecco, allora Francesco, intanto sottolineiamo che sono 518.000 euro, ecco. Quindi insomma immaginiamo la sorpresa di questa persona. Questa persona, che è anche una persona di una certa età, è una pensionata ottantenne, per cui insomma immagino che quando gli è arrivata la notifica con le 45 cartelle, insomma diciamo che ha rischiato, perché ha preso veramente paura. Diciamo che comunque non si è persa d'animo, ha pensato a un errore, insomma ha pensato che fosse successo qualcosa di strano ad Equitalia, perché chiaramente le cartelle sono arrivate da Equitalia, ed si è rivolta a noi immediatamente. E anche appunto il nostro ufficio legale ha preso in mano la situazione e ha appunto potuto constatare che queste notifiche provenivano soprattutto dall'INPS, e anche dalla Camera di Commercio, anche da altri enti, comunque soprattutto dall'INPS, e riguardavano un'attività, una tabaccheria che la donna gestiva a Venezia, centro storico, e ha gestito fino al 1999. Quindi queste cartelle si riferivano appunto a, teoricamente, a mancati pagamenti relativi a questa attività. Scusami un attimo Gianluca, certo. Già io faccio un po' quello che non sa nulla, però mi sembra di capire che dopo 10 anni di solito le cose cadono in prescrizione. Se siamo a delle cose riferite al 1999, sono passati 16 anni. Allora, per essere precisi, la signora ha chiuso l'attività nel 1999 e le prime cartelle risalgono all'88, se non vado errato, ma proprio all'88, e chiaramente quelle vanno assolutamente prescritte. Però ci sono anche delle cartelle che in realtà sono molto più recenti, sono poche rispetto alle 45, saranno una decina di cartelle che non sono neanche ancora prescritte. E allora giustamente tu fai notare il discorso della prescrizione, e questa è stata chiaramente una delle annotazioni che abbiamo fatto subito alla signora. Signora che, devo dire, Francesco, una nota molto curiosa: prima di rivolgersi a noi si è rivolta chiaramente ad Equitalia, e a fare cortesemente gli ha proposto una rapidazione di questi 518.000 euro. Capiamo che insomma la signora ha riso e si è rivolta a noi. Quindi ecco, di queste 45 cartelle chiaramente la maggior parte, come abbiamo già comunicato poi quando è venuta fuori la storia, chiaramente la maggior parte viene prescritta. Una grossa parte però deve essere pagata, e non stiamo parlando di cifre irrisorie. Però qual è il problema principale? È che questa persona dice di non aver mai ricevuto nessun tipo di notifica, tranne quest'ultima qua che le conteneva tutte 45. E quindi abbiamo contestato questo noi all'Equitalia, e con il nostro avvocato siamo andati proprio negli uffici di Mestre assieme alla signora, e qua c'è stata la grande sorpresa. Il direttore di Equitalia ci ha presentato tutte le notifiche e abbiamo potuto constatare che su tutta la firma non era quella della signora, era un'imitazione della firma della signora per la maggior parte delle cartelle, e una sigla diciamo dal significato ignoto per altre. Quindi la signora ha disconosciuto le firme, ma diciamo che anche il direttore di Equitalia, confrontando con l'atto d'acquisto della tabaccheria, con la firma dell'atto d'acquisto della tabaccheria che la signora ha portato, ha potuto notare insomma che quelle firme non erano davvero quelle della signora. Ecco, questa cosa qui è veramente singolare. Mi domando poi anche come Equitalia ci abbia impiegato tutti questi anni ad accorgersi che non c'era risposta da parte della signora agli inviti e alle varie cartelle esattoriali inviate. Sì, è probabile anche che Equitalia forse abbia preso in mano, forse c'era addirittura una società di riscossione credito diversa inizialmente, però purtroppo possiamo constatare come molte volte le tempistiche anche di queste società di riscossione siano allucinanti. Quindi è evidente che delle 45 cartelle alcune sono recenti, come ti dicevo prima. È evidente che a un certo punto si sono resi conto che qua c'era un credito che si stava molto elevato e che quindi doveva essere richiesto al diretto interessato. Naturalmente, Francesco, per noi sono oscuri molti lati di questa faccenda, perché ci chiediamo anche chi abbia fatto quelle firme, ovviamente, che è la cosa certo. principale. Ci chiediamo se l'abbia fatta chi ha gestito l'attività dopo la signora, però oggettivamente noi non lo sappiamo e stiamo indagando. E contando che la signora comunque in ogni caso è una pensionata, quei soldi ovviamente non ce li ha, in ogni caso noi stiamo indagando e probabilmente presenteremo una querela contro ignoti, una querela di falso. Ti assicuro, Francesco, che noi andiamo avanti e ovviamente terremo aggiornato te anche dagli ascoltatori, perché è chiaramente una vicenda dai contorni kafkiani, emblematica assolutamente. Va bene, quindi la cosa che mi viene da dire è ovviamente non perdiamoci mai d'animo quando ci arrivano delle cose stravaganti, diciamo così, stiamo tranquilli, cerchiamo di dormire la notte e poi una buona cosa è rivolgersi a qualcuno che ti può dare una mano. Per fortuna esistono le associazioni a difesa del consumatore come la vostra, come l'ADICO, associazione difesaconsumatori.it è il sito. Gianluca, grazie, mi raccomando, tienici informati su quello che accadrà su questa cosa. Assolutamente, non preoccuparti. Grazie, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.